Quando, lasciato Saint-Lô e seguendo il consiglio impartito a mio padre dal signor di Norpois, feci quella prima visita a Madame de Villeparisis, la trovai nel suo salotto tappezzato di seta gialla, sulle quali i divani e le splendide poltrone in arazzo di Beauvais spiccavano con il loro rosa tendente al viola che ricordava il colore dei lamponi maturi. Accanto ai ritratti dei Guermantes e dei Villeparisis figuravano, doni dei modelli medesimi, quelli della regina Maria Amelia, della regina del Belgio, del principe di Joinville, dell'imperatrice d'Austria. Madame de Villeparisis, con in testa un'acconciatura di merletto nero dei vecchi tempi, che ella conservava per lo stesso gusto del colore locale o storico in omaggio al quale un albergatore bretone, anche se la sua clientela ormai prevalentemente parigina, ritiene più suggestivo che le sue cameriere continuino a portare la cuffia e le maniche a sbuffo, era seduta a un piccolo scrittoio sul quale, accanto ai suoi pennelli, alla sua tavolozza e all'abbozzo di un acquerello di soggetto floreale, c'erano, disposti in bicchieri, tazzi e piattini, dei capelvenere, delle rose borraccine, delle zinnie che aveva appena smesso di fissare sulla tela a causa dell'affluire delle visite e che rendevano il piano della scrivania simile al banco di una fiorista in una stampa del XVIII secolo. Fra le persone che affollavano il salotto leggermente surriscaldato, ad arte, perché la marchesa si era presa il raffreddore tornando dal suo castello, c'erano, quando vi arrivai, un archivista, col cui aiuto, quel mattino, Madame de Villeparisis aveva classificato le lettere autografe di personaggi storici a lei indirizzate e destinate a figurare in facsimile, come pezze d'appoggio, nelle memorie che stava scrivendo, e uno storico, solenne e intimidito, il quale, saputo che la marchesa aveva ereditato un ritratto della duchessa di Montmorency, era venuto a chiederle il permesso di riprodurlo come tavola fuori testo in una sua opera sulla Fronda. Visitatori, cui venne ad aggiungersi il mio ex compagno Bloch, attualmente giovane autore drammatico, sul quale la marchesa faceva affidamento per assicurarsi la presenza gratuita di qualche attore alle sue prossime matinée. Il caleidoscopio sociale era indubbiamente in movimento e l'affare Dreyfus stava per far precipitare gli ebrei all'ultimo gradino della scala sociale. Ma, per violento che fosse il ciclone dreyfusista, non è mai all'inizio di una tempesta che le onde raggiungono il massimo della furia. E poi, Madame de Villeparisis, lasciando che una parte della sua famiglia tuonasse all'unisono contro gli ebrei, si era mantenuta, fino a quel momento, completamente estranea all'affare e non se ne curava affatto. Infine, un giovane come Bloch, che nessuno conosceva, poteva passare inosservato, mentre alcuni ebrei eminenti, personalità rappresentative del loro partito, erano già minacciati. Bloch portava, adesso, il pizzo al mento, occhiali a stringinaso, una lunga redingote e stringeva in mano un guanto come fosse stato un rotolo di papiro. Rumeni, egiziani e turchi possono detestare gli ebrei, ma in un salotto francese le differenze fra questi popoli si colgono a stento. E un israelita che faccia la sua comparsa, come se arrivasse dal fondo del deserto, curvo come una iena, la nuca inclinata obliquamente, profondendosi in grandi salam, soddisfa appieno un certo gusto dell'Oriente. Occorre soltanto, perché questo si verifichi, che egli non faccia parte del bel mondo, altrimenti è facile che assuma l'aspetto di un lord e che i suoi modi siano a tal punto francesizzati da indurre ad associare il suo naso ribelle, svettante in direzioni impreviste come un ciuffo di nasturzi, più al naso di Mascarille che a quello di Salomone. Ma Bloch, che non era stato sciolto dalla ginnastica del Faubourg né ingentilito da incroci con l'Inghilterra o con la Spagna, rimaneva, per un amatore d'esotismo, altrettanto bizzarro e gustoso, malgrado il suo abito europeo, quanto un ebreo di De Camp. Mirabile potenza della razza che dal fondo dei secoli fa giungere su fino alla Parigi moderna, nei corridoi dei nostri teatri, dietro gli sportelli dei nostri uffici, a un funerale per la strada, una falange intatta che detta il suo stile alla pettinatura moderna, assorbe, corregge, fa dimenticare la redingote e si presenta, insomma, ai nostri occhi del tutto identica a quella degli scribi assiri, ritratti in abito da cerimonia che sul fregio di un monumento di Susa difende le porte del palazzo di Dario. Un'ora dopo, Bloch avrebbe sospettato di malanimo antisemita il signor di Charlieu, che si informava se il suo nome fosse ebraico, mentre a muovere il barone erano semplicemente la curiosità estetica e la passione per il colore locale. Del resto, parlando di permanenza delle razze, rendiamo in modo impreciso l'impressione prodotta su di noi dagli ebrei, dai greci, dai persiani, tutte popolazioni cui conviene lasciare la loro varietà. Conosciamo, attraverso i dipinti, il volto degli antichi greci. Abbiamo visto alcuni assiri sul frontone di un palazzo di Susa. E quando in società incontriamo degli orientali appartenenti a questo o quel gruppo, ci sembra di vedere degli esseri soprannaturali, evocati dal potere dello spiritismo. Non avevamo di loro che un'immagine superficiale, ed ecco che ha acquistato profondità, ha assunto le tre dimensioni, si muove. La giovane signora greca, figlia di un ricco banchiere e attualmente sulla cresta dell'onda, fa pensare a una di quelle figuranti che, in un balletto al tempo stesso estetico e storico, simboleggiano in carne ed ossa l'arte ellenica, se non che, a teatro, la messa in scena banalizza le immagini, mentre nello spettacolo cui assistiamo, quando una turca o un ebreo entrano in un salotto, le figure, grazie all'animazione, appaiono più singolari, come se si trattasse veramente di esseri evocati da qualche sforzo medianico. E l'anima, o piuttosto la misera cosa a cui, almeno sinora, si riduce l'anima in questa sorta di materializzazioni, è l'anima da noi intravista in precedenza soltanto nei musei, l'anima degli antichi greci, degli antichi ebrei, strappata a una vita al tempo stesso insignificante e trascendentale, a eseguire davanti a noi, o così sembra, questa mimica sconcertante. Ciò che in realtà vorremmo, e non possiamo, afferrare nella giovane signora greca che si sottrae, è la figura ammirata un tempo sul fianco di un vaso. Avevo la sensazione che se alla luce del salotto di Madame de Villeparisis avessi impressionato una lastra con la figura di Bloch, essa avrebbe restituito di Israele la medesima immagine, così inquietante perché di provenienza apparentemente non umana, così deludente perché, nonostante tutto, troppo simile all'umano, la medesima immagine offertaci dalle fotografie spiritiche. Non diversamente, e più in generale, la nullità dei discorsi delle persone fra le quali viviamo ci dà l'impressione del sovrannaturale nel nostro povero mondo d'ogni giorno, dove l'uomo di genio, dal quale, raccolti come attorno a un tavolino a tre gambe, ci aspettiamo la rivelazione del segreto dell'infinito, si limita a pronunciare queste parole, le stesse che erano appena uscite dalla bocca di Bloch. «Fate attenzione al mio cilindro!» «Ma caro signore, i ministri», stava dicendo Madame de Villeparisis, rivolta in particolare al mio ex compagno e riannodando il filo di una conversazione che era stata interrotta dal mio arrivo, «i ministri, mio Dio, non li voleva frequentare nessuno. Ricordo ancora, anche se ero solo una bambina, Quando il re pregava mio nonno di invitare il signor de casa a un ballo dove mio padre avrebbe fatto coppia con la duchessa di Berry. «Ve lo chiedo per piacere, Florimond», diceva il re. Il nonno, che era un po' sordo, aveva capito de Castries e la richiesta gli sembrava normalissima. Quando capì che si trattava di de Cas, ebbe un sussulto di ribellione ma s'inchinò e la sera stessa scrisse al signor de Cas supplicandolo di fargli la grazia e l'onore di intervenire la settimana seguente al suo ballo. Già, perché si era educati, signore, a quei tempi, e una padrona di casa non si sarebbe mai limitata a mandare il suo biglietto da visita aggiungendo a mano una tazza di tè o tè danzante o tè con musica. Però, se si conosceva l'educazione, non si ignorava l'impertinenza. De casa accettò, ma alla vigilia del ballo si sparse la voce che mio nonno, sentendosi poco bene, aveva disdetto la festa. Lui aveva obbedito al re, ma il signor de casa al suo ballo non ci andò. Sì, signore, mi ricordo benissimo di Molé. Era un uomo di spirito, ne ha dato prova in occasione dell'ingresso ufficiale di Vigny all'Académie. Ma era terribilmente solenne. Lo vedo ancora scendere a pranzo in casa sua con il cilindro in mano. Ah, ecco un dettaglio che evoca un periodo alquanto perniciosamente filisteo, giacché con ogni probabilità era un'abitudine universale quella di starsene in casa col cappello in mano. Intervenne Bloch, ansioso di sfruttare quella rara occasione per istruirsi, grazie a un testimone oculare, circa le particolarità della vita aristocratica di un tempo, mentre l'archivista, sorta di segretario intermittente della marchesa, le lanciava occhiate commosse, come se volesse dirci: «Che donna! Sa tutto! Ha conosciuto tutto! Potete interrogarla su qualsiasi argomento, è straordinaria!» «Ma no!» replicò Madame de Villeparisis, spostando verso di sé il bicchiere con i capelvenere che fra poco avrebbe ricominciato a dipingere. «Era un'abitudine del signor Molé, niente di più. Non ho mai visto mio padre col cappello in casa sua, se non ben inteso quando veniva il re, e questo perché il re è ovunque a casa sua e il padrone di casa non è più che un semplice visitatore». «Aristotele, nel secondo capitolo, ci ha detto», azzardò il signor Pierre, lo storico della fronda, ma così timidamente che nessuno gli fece caso. Sofferente da alcune settimane di un'insonnia nervosa refrattaria ad ogni cura, non si coricava più e, morto di stanchezza, usciva di casa solo quando vi era costretto dai suoi lavori. Incapace di intraprendere con assiduità simili spedizioni, così semplici per altri, ma per lui non meno impegnative che se fosse dovuto scendere dalla luna, rimaneva spesso sorpreso constatando che la vita di ciascuno non era organizzata in modo permanente al fine di assicurare il massimo d'utilità ai bruschi soprassalti della sua. A volte trovava chiusa una biblioteca per raggiungere la quale si era messo artificiosamente in piedi e dentro una redingot come un uomo di Wells. Per fortuna aveva trovato Madame de Villeparisis in casa e fra poco avrebbe visto il ritratto. Bloch lo interruppe. «Per la verità», osservò, riferendosi a ciò che aveva detto Madame de Villeparisis sul protocollo che regola le visite dei re, «non lo sapevo proprio», come se fosse stato strano che non lo sapesse. «A proposito di visite del genere, sapete che stupido scherzo mi ha giocato ieri mattina mio nipote Bazin?» chiese Madame de Villeparisis all'archivista. «Invece di annunciarsi, mi ha fatto dire che la regina di Svezia desiderava vedermi». «Ah, oh, vi ha fatto dire così, come se niente fosse! Questa è buona davvero!» esclamò Bloch, scoppiando in una risata, mentre lo storico abbozzava un sorriso maestosamente timido. «Ero abbastanza stupita, perché ero appena tornata dalla campagna. Avevo chiesto, per stare un po' tranquilla, che non si dicesse a nessuno che ero a Parigi e non riuscivo a capire come mai la regina di Svezia lo sapesse già», continuò Madame de Villeparisis, ponendo i suoi visitatori di fronte alla sbalorditiva evidenza del fatto che una visita della regina di Svezia non aveva in sé ai suoi occhi nulla di anormale.